TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sciopero della CGIL in Friuli Venezia Giulia, corteo di protesta a Udine con 1700 partecipanti. Sul trasporto pubblico adesioni variabili e fasce di garanzia attive, disagi limitati nel trasporto ferroviario regionale con qualche cancellazione di treni. Trieste, condominio senza fornelli e riscaldamento da mesi a San Giacomo. Fuga di gas segnalata da agosto, disagi in pieno inverno e a ridosso del Natale. Operazione antimafia Catania-Gorizia, sequestrati beni per oltre 40 milioni a Fabio Lanzafame, ex collaboratore di giustizia legato a famiglie mafiose. Colpiti immobili, attività commerciali e denaro anche a Gorizia in Romania. In Consiglio regionale si discute a oltranza per votare, forse anche nella notte, la finanziaria 2026. Oggi siamo al quarto giorno di discussione. Rifiuti in aumento in Friuli Venezia Giulia, la raccolta differenziata cresce al 72,7%, Pordenone guida la classifica con l'85,4%, ma l'obiettivo dell'80% è ancora lontano. Inaugurata la nuova rotonda sulla statale 13 a Porcia, dopo 30 anni di attesa, al centro dell'intersezione un'opera d'arte donata da Electrolux per valorizzare l'area. Buongiorno da Daniele Letti, Gianna Vitaliani in studio, in regia c'è Viola Romanese. In apertura dunque lo sciopero della CGIL con circa 1700 persone che hanno partecipato al corteo regionale a Udine chiedendo risposte su salari, contratti, sicurezza sul lavoro, pensioni e sanità. Michele Piga, segretario della CGIL del Friuli Venezia Giulia, ha criticato la manovra finanziaria del governo accusandoli di austerità e di trascurare le necessità sociali. La manifestazione si è interrotta per il malore di un partecipante, ma i manifestanti hanno continuato a chiedere un cambio di rotta nelle politiche nazionali. Un lungo corteo di bandiere rosse che sfila per le vie del centro di Udine e arriva in Piazza Venerio. La CGIL è in sciopero generale per chiedere al governo un'agenda sociale diversa, risposte su sanità, salari, previdenza e scuola. Mobilitazione indetta contro l'impostazione della finanziaria e per la riduzione delle disparità economiche e sociali. Michele Piga, segretario generale della CGIL FVG. Per dare una risposta alle tante giovani e giovani che stanno fuggendo dalla nostra regione e dal nostro paese. È chiaro che questo governo non interviene sulle diseguaglianze e sulle ingiustizie. E i nostri no non sono dei no to cure, sono dei no a delle politiche che sono contro le pensionate e i pensionati, le lavoratrici e i lavoratori e anche i giovani, gli studenti che oggi sono qui con noi. Loro, i più giovani, chiedono più attenzione e più fondi ad istruzione e ricerca per poter sognare di rimanere. Perché attualmente come studenti non abbiamo, cioè non ci sentiamo di avere un futuro qui in Italia, quindi vogliamo questo. Contestata quella che viene definita assenza di visione industriale da parte dell'esecutivo. Michele Azzola, responsabile delle politiche industriali della CGIL nazionale. Noi stiamo uscendo da settori strategici come la chimica di base, come l'automotive, come l'acciaio. La ricaduta sarà esattamente sul tessuto produttivo delle regioni. La piccola e media impresa soffrirà le dipendenze energetiche che questo governo sta creando. È una situazione gravissima. No? Ribadite il no ad ogni spesa che finanzi il riarmo. Orgogliosi di servire il territorio, meno orgogliosi della nostra busta paga, recita un cartello. La battaglia contro la riduzione del potere d'acquisto accomuna lavoratori e pensionati. Questa situazione lavorativa estremamente problematica. Lo stipendio, guardi, nella nostra azienda diciamo che abbiamo uno stipendio diciamo un po' più alto della media, però il potere d'acquisto purtroppo tocca a tutti e anche noi diciamo siamo un po' in difficoltà. È dura arrivare a fine mese, specialmente per i pensionati e per i lavoratori che hanno famiglia con figli ancora di più. Noi pensionati che rimaniamo sempre gli ultimi indietro. Il comizio in Piazza Venerio è stato interrotto per diversi minuti. Un uomo ha accusato un malore ed è caduto a terra, sbattendo la testa sul selciato. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E tra i settori coinvolti dallo sciopero c'è ovviamente quello del trasporto pubblico, che dopo quella di questa mattina garantirà un'altra fascia di garanzia tra poco, dalle 12 alle 15 nelle province di Gorizia e Udine, dalle 12.30 alle 15.30 in quella di Pordenone e dalle 13 alle 16 in quella di Trieste. L'adesione allo sciopero è stata invece tra il 5 e il 10% del personale a Pordenone e del 30% a Gorizia, in attesa ai dati di Udine e Trieste. Per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario regionale, finora si sono registrate solo alcune cancellazioni di treni, ma nel complesso pochi disagi per i passeggeri. La pagina della cronaca ora nel contesto delle indagini contro la criminalità organizzata e finanziari del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dell'autorità di Gorizia e della cooperazione europea, hanno eseguito un sequestro di beni per un valore superiore ai 40 milioni di euro a Fabio Lanzafame, ex collaboratore di giustizia. Lanzafame, legato sia al clan Santa Paola Ercolano che al clan Cappello Bonaccorsi, era già stato condannato per reati legati a giochi e scommesse illegali, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Il sequestro disposto dal Tribunale di Catania ha colpito 20 attività commerciali, 89 immobili in Italia e in Romania, conti bancari e denaro contante, nascosto anche in provincia di Gorizia. Tra i beni sequestrati spiccano una proprietà del centro storico di Ortigia e un elegante palazzo di Pitesti in Romania. Lanzafame, grazie a complesse operazioni economiche, aveva accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai suoi redditi leciti. L'attività si inserisce nel solco delle operazioni Revolution Bet e Crypto, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, che avevano già permesso di delineare il profilo di Lanzafame come soggetto socialmente pericoloso. Nonostante valga la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, l'uomo è stato condannato nel 2020 e nel 2022 a circa 7 anni di reclusione per esercizio abusivo del gioco e delle scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato, trasferimento fraudolento di valori, con l'aggravante di aver agevolato organizzazioni mafiose nel settore del gambling illegale. Restando nell'Isontino, la Polizia di Stato di Gorizia ha arrestato 2 cittadini sloveni fermati il 2 dicembre su un'auto con targa slovena, trovati in possesso di 6 targhe rubate e materiali di segnaletica stradale. Durante il controllo i 2 uomini avevano anche un taglierino e guanti con tracce di terra. Uno dei fermati è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con ritiro della patente. Entrambi sono stati indagati per ricettazione e rischiano la misura del foglio di via obbligatorio. E sempre la polizia di Gorizia ha denunciato un cittadino indiano di 44 anni dopo essere stato sorpreso il 1 dicembre a sostenere l'esame teorico per la patente con una microcamera auricolare e altri dispositivi elettronici nascosti. L'uomo è stato identificato grazie a un controllo della squadra mobile che ha sequestrato il materiale usato per il tentativo di imbroglio. Il 44enne è stato deferito alla procura di Gorizia. La Polizia di Stato di Udine ha arrestato 2 cittadine italiane domiciliate in città, entrambe destinatarie di distinti ordini di carcerazione. La prima è una donna di 32 anni, era ricercata per espiare una pena di circa 3 anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti commessi nel 2020. La seconda, di 53 anni, è stata arrestata per dover scontare una condanna di 2 anni e 2 mesi per 2 rapine commesse a Trieste nel 23 e nel 24, una delle quali aggravata dall'uso di un coltello a serramanico. Le 2 donne, dopo gli atti di rito, sono state trasferite al carcere di Trieste. Trovarsi senza fornelli e senza riscaldamento da mesi in pieno inverno e alle porte del Natale sta succedendo ai condomini di una palazzina di San Giacomo a Trieste, dove ad agosto era stata riscontrata una fuga di gas. Ascoltiamo questa storia. Sul portone d'entrata c'è ancora l'avviso con la scritta ormai sbiadita 13 agosto ore 21:40, quando è stato interrotto il servizio gas a seguito di una dispersione sull'impianto di derivazione d'utenza privato, si legge. Era estate, da quella sera sono passati 4 mesi e il servizio non è ancora stato ripristinato, ma ora è inverno, fa freddo, gli appartamenti nel condominio di via San Giacomo in Monte a Trieste sono senza riscaldamento e gli inquilini non hanno la possibilità di cucinare. Alcuni si sono procurati il camping gas o il fornellino elettrico, ma se cucinano devono spegnere la stufa elettrica che in tanti si sono procurati per non restare al freddo, ci dice questo inquilino che vuole restare anonimo. Il 13 agosto c'era una perdita di gas, si sentiva puzza di gas, poi è venuto qualcuno, non so se dalla strada o del condominio, ha chiamato, sono intervenuti i pompieri e hanno trovato 2 perdite. Una, quella in strada, l'hanno aggiustata, diciamo, nel giro di un mese, e poi è successo che va aggiornato l'impianto anche del condominio. Abbiamo contattato la CEGAS APS AMGA, che ci ha spiegato che per procedere alla riparazione è ancora in attesa dell'atto di servitù da parte del condominio per poter far transitare i tubi all'interno di un'area privata adiacente al condominio, per completare così l'allacciamento dell'impianto e quindi riavviare la fornitura di gas. Qualcosa non funziona nell'amministrazione, ci fanno capire i condomini, che intanto continuano a sfidare il freddo. Trieste, Eva Ciucci, GR Friuli Venezia Giulia. Ora la politica. In Consiglio regionale l'ultimo dei 4 giorni dedicati alla discussione e al voto sulla finanziaria per il 2026. Incertezza su quando si terrà il voto finale, ma i consiglieri sono pronti anche alle ore piccole. La maratona è partita, l'avvio poco prima delle 10.30, la fine è incerta. Gli ottimisti, pochi, parlano delle 21.30, i pessimisti delle 3.30 di notte. In quest'ultima giornata si discutono e si votano gli articoli della legge di stabilità collegati ai finanziamenti più corposi. Fra essi stamattina la cultura, assessore Anzil, il lavoro, formazione e famiglia, assessora Rosolen, nel pomeriggio salute, Riccardi, sicurezza ed enti locali, Roberti. Per ciascun articolo, esposizione, discussione e voto di emendamenti e subemendamenti e poi voto finale della norma. La finanziaria complessivamente, lo ricordiamo, pesa 6,5 miliardi, 108 milioni per la cultura, 226 per lavoro, formazione e famiglia, 3,7 miliardi alla sanità. In mattinata dunque gli emendamenti in tema di cultura e sport, con la proposizione di fondi a varie realtà della regione, dalle bande musicali all'ERPAC, dal paraciclismo al magazzino 26 come luogo della memoria dell'esodo da Istria e Dalmazia, dall'anniversario di nascita della fotografa Tina Modotti alla proposta di un fondo archivistico su Loris Fortuna. Tra poco il presidente della regione Fedriga e il presidente del consiglio regionale Bordin rivolgeranno gli auguri di buone feste al personale. Poi i lavori riprenderanno a oltranza, fino al voto finale sull'intera manovra. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. La produzione di rifiuti in Friuli Venezia Giulia è aumentata nel 2024 raggiungendo 640.000 tonnellate, tuttavia cresce anche la raccolta differenziata che ha toccato il 72,7%, superando la media nazionale ma ancora lontano dall'obiettivo europeo dell'80% entro il 2030. Pordenone si conferma la provincia più virtuosa, il quadro della situazione è stato tracciato nell'ultimo rapporto sui rifiuti dell'ISPRA. Ridurre la quantità di rifiuti prodotti è uno dei principi dell'economia circolare, eppure il loro numero continua a crescere in Friuli Venezia Giulia come in tutta Italia, legato anche all'andamento positivo del PIL. In regione nel 2024 la produzione di rifiuti urbani è stata pari a 640.000 tonnellate, in crescita del 2,2% rispetto al 2023. Dato positivo è invece l'aumento, anche se leggero, della raccolta differenziata che raggiunge il 72,7% della produzione totale rispetto al 72,5% del 2023. Superiore alla media nazionale del 67,7%, ma inferiore rispetto a regioni come Veneto e Trentino Alto Adige. Il percorso verso l'obiettivo europeo dell'80% di differenziata entro il 2030 richiederà comunque un ulteriore impegno. Tra i materiali riciclati, buono è il risultato pro capite di recupero dei RAE, i rifiuti elettronici, di 7,08 kg per abitante, contro una media italiana di 4,76. Male invece la raccolta di materiali tessili, ne viene recuperato 1,440 g per abitante, contro una media italiana, comunque bassa, di 3,06. A livello provinciale Pordenone si conferma la più virtuosa con l'85,4% di differenziata, quarta città più riciclona in Italia. Udine è al 74,7% e Gorizia al 72,5%, mentre Trieste rimane indietro con il 50,6%, penalizzata da difficoltà logistiche nella raccolta dovute alla conformazione del territorio e dal fatto che la differenziata è iniziata più tardi rispetto ad altre province. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono terminati i lavori per la nuova rotonda sulla statale 13 a Pontebbana, nel comune di Porcia. L'intervento interessa uno degli snodi viari più trafficati della provincia, con flussi tra i 25 e i 34 mila veicoli al giorno. La rotonda era attesa da 30 anni. Al centro troverà spazio un'opera d'arte donata da Electrolux. La rotatoria con un diametro complessivo di circa 50 metri e corsie larghe 10 sostituisce un incrocio considerato critico per sicurezza e code. Un'opera da circa 2 milioni di euro che consente ora la riapertura completa delle strade laterali e una migliore fluidità del traffico nella zona dello stabilimento Electrolux. Il sindaco Marco Sartini ha fatto il punto sui benefici per la viabilità e sui prossimi interventi previsti nell'area. Tra questi è prevista la messa in opera di un mosaico verticale realizzato dalla scuola mosaicisti di Spilimbergo, ma soprattutto una scultura denominata Uroboro, dal forte impatto visivo. Un serpente che si mangia la coda, la metafora del riciclo d'energia, principi della progettualità Electrolux realizzato con elementi di scarto dello stabilimento. Sentiamo il sindaco. Siamo molto contenti perché dopo 11 mesi di cantiere, una progettazione complessa che è andata avanti diversi anni, mercoledì 17 apriremo l'opera al traffico gradualmente, ma nella mattinata di mercoledì 17, e poi stiamo lavorando con Electrolux in partnership per installare un'opera artistica che darà una connotazione simbolica all'ingresso del comune di Porcia e che la lega anche al più grande stabilimento di Electrolux del mondo che produce lavatrici e che è a Porcia dal 1953. Quell'incrocio aveva 5 assi convergenti, i numeri corretti ormai li sappiamo un po' tutti a memoria, erano 25.000 veicoli al giorno da lunedì a giovedì, il venerdì diventavano 35.000 per i rientri tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi era uno snodo fondamentale. Abbiamo voluto fare un progetto classico, largo 50 metri di diametro, una corsia interna di 9 metri, una distribuzione di veicoli che ci dà maggior sicurezza, e abbiamo inserito delle migliorie nel corso del tempo come le uscite in destra che daranno una maggior garanzia di sicurezza a tutti gli automobilisti che transitano su quella zona, che non riguarda solo Porcia ma riguarda l'intera parte di territorio del Friuli Venezia Giulia di qua del Tagliamento. Porcia, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il comune di Palmanova avvia la riqualificazione dell'ex caserma Ederle, un'area di 45.000 metri quadrati nel centro storico attualmente occupata da capannoni militari dismessi. Grazie ad un finanziamento di 171.000 euro della regione Friuli Venezia Giulia sarà sviluppato un master plan per trasformare l'area in uno spazio funzionale e sostenibile. Il sindaco Giuseppe Tellini ha sottolineato l'importanza di un approccio partecipato coinvolgendo cittadini, associazioni, professionisti e istituzioni per definire obiettivi condivisi. Il progetto mira a valorizzare la zona tenendo conto della sua posizione strategica e delle opportunità turistiche legate alle fortificazioni storiche di Palmanova. Nel frattempo è in corso la riqualificazione di un tratto della caserma con la realizzazione di un terzo anello viario e di una fermata del trasporto pubblico locale per un investimento di quasi 2 milioni di euro. Le pari opportunità tra i generi anche sul posto di lavoro possono costituire un fattore competitivo importante per le aziende. È la riflessione della presidente della Confcooperative Alpe Adria, Serena Mizzan, che ammette c'è ancora molta strada da fare. Se guardiamo ai numeri in proporzione, in Friuli Venezia Giulia la componente femminile nel mondo del lavoro è maggiore che nel resto d'Italia, ma non basta questo a risolvere il tema delle pari opportunità. I problemi principali per le lavoratrici restano stipendi bassi e conciliazione vita-lavoro. Le donne tendenzialmente sono pagate meno degli uomini, anche perché molto spesso sono in una condizione di obbligo di part-time, possiamo chiamarlo così, obbligo non necessariamente imposto dal datore di lavoro, ma delle condizioni personali, familiari che le donne si trovano a vivere. Questo comporta anche una ricaduta di tipo economico. Pensiamo ai congedi parentali che vengono fruiti molto più spesso dalle donne che non dagli uomini, e questo comporta un danno di tipo economico. Nessuna donna dovrebbe essere messa nelle condizioni di dover scegliere tra famiglia e carriera. E per questo è estremamente importante la presenza di servizi sul territorio. Combattere il divario di genere può costituire un fattore competitivo anche per le aziende. Avranno immediatamente un buon clima aziendale. Il buon clima aziendale favorisce lo sviluppo economico, favorisce l'innovazione, favorisce tutta una serie di temi che saranno economicamente utili, socialmente utili e umanamente interessanti. Abbiamo un patrimonio inutilizzato di competenze nelle donne che non possono svilupparle completamente nel mondo del lavoro. Per Mizzan anche il mondo cooperativo, pur inclusivo, deve fare un po' di autocritica. Dai nostri lavoratori abbiamo il 70% di donne. Se andiamo a contare le presidenti scopriamo che sono soltanto il 30%. Quindi abbiamo imparato a includere, ma sicuramente dobbiamo ancora procedere su un percorso di pari opportunità. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo al tempo, 12:49 e 30 secondi, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 9 gradi e mezzo, a Udine 14, a Gorizia e Pordenone 12, a Forni di Sopra 8 gradi e mezzo, a Piancavallo 8, a Tolmezzo 7 e mezzo, a Tarvisio 1, a Sappada meno 2 gradi, sul Monte Zoncolan 3 gradi, sul Monte Lussari 1 grado e mezzo, sulla costa a Grado Lignano 7 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA, oggi cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature, presenza di inversione termica marcate nelle ore notturne, al mattino specie a fondo valle in pianura. Sulla bassa pianura possibili foschie o nebbie notturne, sulle zone orientali e sul Carso soffierà borino, bora moderata, specie al mattino e poi di nuovo in serata. Lo sport, riflettori puntati sul pugilato che torna a Trieste con l'edizione 2025 delle fasi finali dei campionati italiani elite, giunti rispettivamente alla 103esima edizione per quanto riguarda i maschi e alla 24esima edizione femminile, che si tiene e si tengono da oggi a domenica al Palazzetto dello Sport di Chiarbola. Un ritorno storico, l'ultima volta che Trieste ospitò gli assoluti risale al 1952, la kermesse dedicata al triestino Nino Benvenuti, recentemente scomparso, campione del mondo e di Roma 60. 137 gli atleti sul ring, 80 uomini, 57 donne in 18 categorie di peso. Pallanuoto maschile, nell'ultima giornata di andata del campionato di Serie A1, Trieste, ancora priva di Petronio e Razzi e reduce dalla sconfitta patita a Brescia, ospita alla Piscina Bianchi la Rarinantes Salerno, inizio alle ore 20. Biathlon, Elisa Vitozzi torna in pista per la Coppa del Mondo a Hochfilzen in Austria, sarà impegnata nello sprint sui 7,5 km, partenza alle 14:15. Together at Christmas, un concerto speciale del celebre gruppo vocale a cappella The Swingle Singers, stasera alle 20:45 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia. Vincitori di 5 Grammy Awards, gli Swingles sono riconosciuti a livello internazionale per la loro capacità di fondere tradizione e modernità, spaziando tra repertori che vanno dal barocco al pop, dal jazz alle colonne sonore. Il programma includerà canzoni come Silent Night, Carol of the Bells, che stiamo sentendo in questo momento in sottofondo, This Christmas e un medley di brani natalizi reinterpretati. Sono stati consegnati questa mattina ad Aviano i riconoscimenti del 16° premio giornalistico Simona Cigana, organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone in memoria della collega scomparsa nel 2007. Per la categoria inchiesta, il primo premio è andato ex aequo a Melania Lunazzi per un reportage sul Monte Canin su Meridiani Montagne e a Lorenzo Giroffi per un servizio sul CPR di Gradisca di Sonzo per il programma Il Cavallo e la Torre di Rai 3. Nella categoria sport, il vincitore è Pierpaolo Simionato del Gazzettino, con un'intervista a Gian Paolo Zanotel, imprenditore ed ex calciatore, patron del nuovo Pordenone Calcio. Nella categoria sociale lavoro, a ricevere il primo premio è stato Luca Saviano di Trieste Prima con il servizio Vita da Rider. Un percorso immersivo attraverso i giardini e gli interni di tre prestigiose dimore storiche della regione, impreziosite dalle opere del pittore e scultore Giorgio Celiberti, sarà possibile percorrerlo oggi e domani su iniziativa del Club Brunesco di Udine, che aprirà al pubblico i giardini di Villa Pace di Tapogliano, Palazzo Orgnani di Udine e Villa Attems di Lucinicco. Per chi deciderà di partecipare alla raccolta fondi per il progetto Celiberti per l'UNESCO, sarà possibile anche visitare l'interno delle dimore coinvolte. Si intitola Qui intorno, progetti fotografici per il Friuli Venezia Giulia 1985-2014, la mostra che il Castello di Udine dedica al lavoro che Guido Guidi ha realizzato in regione nell'arco di quasi 30 anni e che si affianca alla grande retrospettiva dell'opera del fotografo Cesenate in corso da settembre al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea. L'esposizione sarà inaugurata oggi alle 18 e sarà visitabile da domani. Termina qui questa edizione del GR regionale, redatto e condotto da Daniele Lettige e Anna Vitaliani. In studio, in regia, c'è Viola Romanese. In redazione ha collaborato Paolo Nuzzo. Grazie a tutti per l'ascolto. Il GR regionale torna alle ore 15. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.